senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Classe seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio tra noi.